personale che non ha molto a che fare con quello che sto per dire, però per me è importante. Niente, io in pratica ho fatto sesso con Claudia Schiffer. Ho fatto nella mia vita, insomma, tanti anni fa, non era ancora nessuno, mi ha lavorato in un pub a Londra. Niente, una cosa di una serata, però insomma comunque dopo insomma realmente che hai fatto sesso con Claudia Schiffer. Niente, vi racconto anche questo perché nel pub dove lavoravo c'era un cliente fisso che noi chiamavamo Mr. Harrods, era di Catania, che veniva sempre al pub dove lavoravo io, si sedeva a leggere il giornale. Un giorno mentre leggeva il giornale disse: ma dice che hanno scoperto che sulla Luna c'era l'acqua. Io non ci credo. No, dice che sulla Luna, dice che sulla Luna mo hanno scoperto che prima c'era l'acqua, capito? Ma per favore, io non ci credo. Perché Raimondo, questa è la mia filosofia, va bene? Io non ci credo, questa è la cosa. Se tu vieni qua domani mi dici che hai trovato un Claudia Schiffer, io a te Raimondo non ti credo. Ma non perché tu sei tu quelle Claudia Schiffer, no, anche se tu mi porti una foto con te che baci Claudia Schiffer, anche se me la porti qua e chiavate davanti a me, io ti guardo e non ti credo. Perché se io dovessi mai credere che tu hai trovato un Claudia Schiffer, io dovrei modificare troppe cose. CIA, l'FBI, l'esecutivo e l'amministrazione della Casa Bianca hanno favorito gli attacchi dell'11 settembre. E mo loro si sono attaccati da solo, per favore! Io non ci credo! Allora va bene, un ricco e fanatico saudita che è emigrato in Afghanistan dalle grotte ha organizzato 19 kamikaze, dirottato 4 aerei e ucciso quasi 3.000 persone. E mo tutto da solo, dall'Afghanistan, quello là, ma per favore, io non ci credo! Gli Stati Uniti d'America! La prima democrazia al mondo esercita un potere di attrazione sui giovani di tutto il pianeta e sognano le sue bibite e le sue donne in bikini. L'11 settembre 2001 subisce un attacco da quelle forze che sono infastidite da questo potere di seduzione. Vengono dirottati 4 aerei, 2 si schiantano sulle torri gemelle, il World Trade Center, il centro mondiale del commercio, 1 sul Pentagono e 1 peggiore in Pennsylvania. Ancora tutti quanti, sconvolti, guardano lo Stato Maggiore, la CIA, e gli chiedono: ma come è possibile? Ma non ci avevate pensato? No. L'FBI scrive: e l'idea di far schiantare un aereo contro un edificio e di usarlo come una bomba non è venuto fuori. Robert Mueller, lui, il capo dell'FBI, dice: per quanto ne so, non c'è stato alcun segno premonitorio. Ramzi Youssef è un ex mujahideen che è stato in Afghanistan, ha fatto la guerra e ora è a New York. E aspetta, ha organizzato tutto da solo. Ha cambiato nome una decina di volte per fare avanti e indietro dagli Stati Uniti al Sud, all'Arabia Saudita, Filippine. Dice che farà cadere le torri gemelle. Allora il suo capo Osama Bin Laden ha fiducia in lui e gli dà spago. Lui studia la cantina dei sotterranei dove ci sono i parcheggi, riempie una macchina di esplosivo e la piazza là sotto, poi desci e si mette a lottare da lontano. È il primo attentato alle torri, 1993. La macchina esplode, ma non scalfisce neanche le strutture portanti. L'attentato fallisce e Youssef scappa. Quello stesso anno il Pentagono fa svolgere un'indagine per calcolare le possibilità che un aereo commerciale venga usato per attaccare obiettivi nazionali. L'anno dopo, nel 94, un ingegnere di volo della Federal Express viene licenziato. Lettera di licenziamento: ah, crisi di nervi, compra un biglietto, sale su un DC-10 come passeggero, irrompe nella cabina di pilotaggio e cerca di prendere il controllo per far schiantare l'aereo sull'edificio della sua ditta che l'ha licenziato. Il 2 settembre l'aereo cade nel giardino della Casa Bianca, lo ricordate? Il 3 dicembre viene sventato il dirottamento del gruppo islamico armato che vuole far schiantare un aereo delle Friends sulla Torre Eiffel. Oppure c'è l'idea di far schiantare un aereo contro un edificio, usarlo come una bomba. Ma non è venuto fuori. Contro nessuno c'è stato alcun segno premonitore. E invece l'idea di far schiantare un aereo, di usarlo come missile, inizia a prendere corpo tra spie e terroristi, insomma in quell'ambiente lì tra CIA e Al-Qaeda, inizia ad avere anche un nome ed è Progetto Bojinka, che vuol dire in jugoslavo grande botto. Giovanni Paolo II va a Manila, Filippine. I terroristi organizzano il guardava, che viene aspettando la polizia. Ed è lì che viene beccato Yusef con il suo computerino portatile. Detto al computer tre piani. Uno, uccidere Giovanni Paolo II. Due, un enorme attentato. Far saltare 11 aerei con bombe piazzate a bordo quasi simultaneamente, massimo 48 ore, su tutto il Pacifico. Oggi. Terzo, un appendice del primo, o forse un'alternativa, far schiantare questi aerei contro edifici negli Stati Uniti. Tra le possibilità, il Campidoglio, la Casa Bianca e le Torri Gemelle. Un mese dopo, il direttore della Task Force Antiterrorismo della Casa Bianca ha detto agli Stati Uniti che terroristi italiani e blindati potrebbero attaccare gli Stati Uniti, sì, e indica come obiettivi il Campidoglio e la Casa Bianca e specifica che avrebbero usato aerei di linea commerciali come bombe! L'11 settembre del 96 inizia il processo a Yusef e Murat, un suo collaboratore, illustra un piano per far schiantare un aereo bomba contro l'edificio della Cina. Per quanto ne so, non c'è stato alcun segno per il motore. 1997. Da due anni, alle agenzie già esistenti si è affiancata Echelon. L'enorme aspirapolvere dell'universo. 120 satelliti che coprono tutto il mondo. Gestito da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma mai riconosciuto da nessuno. A tal punto che una commissione europea ci ha messo un anno intero di indagini per dirci solo nel 2001 che esiste! Sì, esiste! Echelon risucchia le trasmissioni elettriche come un aspirapolvere. Telefonate, telex, fax, scambi commerciali, destinazioni volatili, borsa, tutto, tutto, in tutto, in tutto. Ed Echelon dovrebbe venire un po' per lo scoperto per passare le sue intercettazioni nel 98, quando a Manhattan venne istituito un processo in contumacia a Bin Laden per qualche bomba pensate qualche ambasciata americana in Africa. Echelon aveva intercettato e tradotto le telefonate di Osama. E mentre Bin Laden veniva riconosciuto colpevole e sorvegliato dal grande aspirapolvere prima in Sud e poi in Afghanistan, continuava a lavorare al progetto Rojinka. Il processo iniziava e in America arrivavano i primi terroristi pronti a morire, che venivano in questo grande paese per imparare a volare! Per guidare un aereo ci sono due possibilità. Fare una scuola privata o fare una scuola militare. Per essere addestrato in una scuola militare, tipo come ha fatto il mitico Mohammed Atta, il capo dei dirottatori, devi essere cittadino di un paese amico. E il tuo paese deve garantire per te dato direttamente i soldi, tipo come ha fatto l'Arabia Saudita per centinaia di piloti e per una dozzina di questi 19 dirottatori. Ma noi? Noi? Dice Robert Mueller. Non sapevamo nulla. Davvero, se avessimo saputo che le cose stavano così, Forse allora tutto questo avrebbe potuto essere evitato. Nel senso che se tu sai che ti vogliono attaccare con un aereo, forse vai a guardare se c'è qualche incallito terrorista che viene messo in volo. Ma se non lo sai, il National Intelligence Council nel 99 avverte gli Stati Uniti che terroristi di Bin Laden avrebbero potuto dirottare un aereo e farlo schiantare sul Pentagono o sulla Casa Bianca o sul Campidoglio. La FAA, l'Amministrazione dell'Aviazione Federale, pubblica ogni anno un rapporto chiamato Atti criminali contro l'aviazione, e nell'edizione del 99 scrive che Bin Laden avrebbe potuto dirottare un aereo per umiliare gli Stati Uniti. Sulla copertina del rapporto c'è una bella foto delle Torri Gemelle. Nell'edizione del 2000 invece c'è scritto che Bin Laden aveva sia le motivazioni che i mezzi per essere una grave minaccia all'aviazione civile. Nel 2001 non fa in tempo a pubblicare avvertimenti, però ci pensa l'ufficio dell'FBI di Phoenix, che manda un rapporto alla sede centrale e dice: allievi del Medio Oriente legati a Bin Laden si stanno iscrivendo in gran numero a corsi di volo. Ma vuole accertamenti. Anche noi non sappiamo nulla. Non è stato che se non avessimo saputo che le cose stanno così, per forse questo avrebbe potuto essere evitato. La scuola più gettonata era a Venezia, Venice, Florida, la Huffman Aviation, dove hanno studiato tre dei quattro piloti suicidi e dove è stato anche il mitico Mohammed ovviamente. Non tutti i lottatori hanno avuto questa fortuna, altri non hanno trovato una scuola per ospitare. Io voglio parlarvi, di una di queste immigrati più sfortunate. Voglio parlarvi del povero Moussaoui. Il nostro capitolo alla PAN Academy di Minnesota. Moussaoui, 33 anni. Uomo risoluto che non riusciva a mascherare il suo entusiasmo da kamikaze. I suoi istruttori di volo intervistati hanno detto che il poveretto non aveva proprio la stoffa del pilota, che cioè si impegnava ma non sapeva guidare, che voleva sempre partecipare alle costosissime esercitazioni sui simulatori di volo commerciali. James Overstad, che era il suo istruttore di volo, si preoccupò vedendo che era volenteroso, ma sempre distratto quando si trattava di decollo e atterraggio. Ovesta chiama l'FBI, ma nessuno lo prende sul serio, figuriamoci. Non ne sapevano niente. Dice di aver detto a qualcuno, ma non capite che un 747 carico di carburante può essere usato come una bomba? Davvero? Fatto sta. Moussaoui viene arrestato il 26 agosto del 2001. Doppia nazionalità francese e algerina, in possesso di una decina di passaporti, di informazioni tecniche sui Boeing, manuali di volo, insomma il kit del buon pilotatore. La Francia e i servizi segreti avevano mandato un dossier che identificava Moussaoui come un terrorista islamico legato a Bin Laden. Allora qualcuno propone degli accertamenti. Bene, vuoi bene. Allora, da dove cominciamo? Qui c'è il computer portatile. Apriamo, vediamo cosa succede. Sì, bravo, bella idea. Hai l'autorizzazione? Che autorizzazione? Non dico l'autorizzazione, perché le computer ci vuole l'autorizzazione, ce l'hai l'autorizzazione, eh? No. No, ma che cosa vuol dire questa? Un terrorista, hai sentito che dicono i francesi? Questo ha una decina di passaporti, se vai nei cessi della scuola è pieno di disegni di aerei che si schiantano con ogni tipo di edificio, cioè, abbiamo questo computer, non aprire il computer, io l'ho, davvero, non aprire il computer! Se tocchi quel computer ti ammazzo. C'è una legge che difende i cittadini da questo tipo di abusi di potere. Ed è una legge che risale al 1978. E c'è anche un tribunale preposto speciale a questa autorizzazione dal Dipartimento di Giustizia. E guardando anche i rapporti del governo, ha fatto un ottimo lavoro. Ha autorizzato 12.000 provvedimenti per indagini sotto copertura e intercettazioni. E ne ha bloccati solamente uno. Questo. È l'eccezione che conferma la serietà dei precedenti 12.000. Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI bloccano il mandato di perquisizione perché non esistevano informazioni sufficienti per giustificare il simile mandato da un punto di vista legale. Punto. Ma l'ufficio dell'FBI di Phoenix non si dà pace e riesce a organizzare una riunione ad alto livello. Ed è parlando di questa riunione che Mueller, capo dell'FBI, dirà al congresso nel maggio del 2002, la direzione dell'FBI ha ignorato, un mese prima dell'attentato, l'allarmata segnalazione di un suo agente che definiva Moussaoui come il tipo di persona in grado di pilotare un aereo contro il World Trade Center. Ma che noi non sapevamo nulla, capite? Se avessimo saputo che cose stavano così, forse tutto questo avrebbe potuto essere evitato. Perché non c'è stato alcun segno premonitore. Ma il fatto è che poi l'idea stessa di far schiantare un aereo contro un edificio o di usarlo come una bomba non era mai più. Fine agosto, ci siamo quasi, Dal 23 esiste una lista stilata da FBI e CIA, 100 nomi possibili terroristi affiliati a Bin Laden. La sicurezza aerea manda un avvertimento alla FAB, gli chiede di rinforzare le porte che danno accesso alla cabina pilotaggio o comunque di dare un minimo di armamento ai piloti. La FAB rifiuta. La telefonata dell'istruttore, l'arresto di Moussaoui, gli avvertimenti del servizio segreto francese, dell'FBI di Francia, ancora ad agosto, le intercettazioni di Exxon, i rapporti della FAB, del National Intelligence Council, della Task Force Antiterrorismo e di altri. E poi il progetto Bojinka, che torna dal 95 in poi in diverse forme in altri luoghi. Non è facile parlare ora, c'è il segno di poi. Ma Ma la verità era che a quei tempi non era ipotizzabile questa verità. Infatti, come dirà Müller davanti al Voss, chinando la testa, non siamo stati in grado di collegare le informazioni. Alla fine lo sapete com'è. Tu, un istituto è grande, tu si perdono le cose, no? Moussaoui, scusate, Mohamed, certo era nella lista dei sorvegliati, ma chissà che cazzo aveva la lista, in quale stanza stava? Non ne sapeva niente quello della stanza accanto che si occupava di visti e immigrazione. Così Mohamed Hatta si è fatto avanti e indietro Stati Uniti e Germania almeno due volte. E sono sicuro che al piano di sopra erano ancora più all'oscuro. Così quando hanno controllato la sua domanda per essere istruito in una scuola dell'aeronautica militare, non hanno avuto niente da dire, hanno dato via libera all'Arabia Saudita che ha pagato per l'addestramento, e per non parlare dell'impiegato che doveva mandare i fax con la lista dei sorvegliati agli aeroporti, cioè, almeno a quelli internazionali. Chissà in quale cazzo di scantinato sta il fax. Ed è naturale che in questa Babilonia di voci e carte, quando uno grida al lupo, è trattato come Cassandra. Ed è toccato a un agente dell'FBI che fino a 2 settimane prima dell'attentato continuava a gridare e a gridare. L'FBI ha bloccato le sue indagini e lo ha avvertito che se avesse divulgato le informazioni emerse, sarebbe stato perseguitato. Allora la gente ha passato in una voce, cerca di rivolgersi ad altri per far comunque prevenire l'allarme. Parla con David Shippers, procuratore responsabile delle indagini alla Camera di Giustizia, insomma, quello che ha ottenuto il impeachment per il popolo inquieto. Parla da lui. Siamo ormai al 30 agosto. Mubarak, il presidente dell'Egitto, avverte gli Stati Uniti. Qualcosa sarebbe successo. Gliel'avevo detto, dirà più tardi. Shippers si aspetta a fare. Chiama, telefona, chiama al ministro della Giustizia. Parla con un segretario, 2, 3 volte, niente da fare. 7 settembre. L'intelligence francese manda un rapporto agli Stati Uniti. Imminenti attacchi. Elenca gli indizi e specifica che l'ordine sarebbe arrivato dall'Afghanistan. Cipers ormai aspetta di essere contattato. C'è un messaggio a tutti i segretari. Aspetta, aspetta, aspetta. Fin quando non è troppo tardi. 11 settembre 2001. Il coordinatore dell'antiterrorismo della Casa Bianca mette tutte le agenzie in allarme. Il sindaco di San Francisco, che doveva partire quella mattina per New York, rimanda il suo viaggio per problemi di sicurezza. Ci si aspetta qualcosa. E ok, tutti pronti. Eppure, tra le 7.45 e le 8.30, 4 aerei vengono dirottati e riescono a raggiungere 2 il World Trade Center. Come funzionano le misure di sicurezza della FAA? Allora, funzionano così. Secondo i manuali della FAA, un pilota, prima di partire, deve sottoporre un piano di volo, la rotta. La rotta è composta da punti geografici, detti fix. Quando i fix vengono collegati tra loro, si ottiene la traiettoria. È semplice. Un aereo deve toccare tutti i fix. Se ne manca uno per più di 2 miglia, il controllore prende e chiama l'aereo. Sulla radar del controllore, sopra il puntino che indica l'oggetto, appare anche il numero di identificazione. E questo vuol dire che il radar non fa tutto da solo, ma riceve un segnale da una trasmittente piazzata a bordo di ogni aereo, che si chiama transponder. Quando il transponder viene spento, sul radar appare solo il puntino, quindi è senza piano di volo. Anche in questo caso il controllore prende e chiama l'aereo. Ha 5 minuti di tempo per mettersi in contatto. Dopodiché, se non ci riesce, deve chiamare la più vicina base dell'aeronautica e far scattare l'ordine di decollo rapido per l'intercettazione. Quest'ordine non ha bisogno di autorizzazioni, è un ordine automatico standard, cioè prima si fanno decollare in caccia e poi si vede. Esempio, Payne Stewart, che di lavoro fa il giocatore di golf. Il 26 agosto del 99 sale sul suo jet. Secondo il rapporto ufficiale, alle 9.19 decolla. Alle 9.24 il pilota parla con il controllore di volo. Alle 9.33 manca un fix. Allora il controllore cerca di mettersi in contatto per 4 minuti e mezzo. E poi alle 9.38, non essendo riuscito, chiama l'Air Force, il NORAD, e fa scattare l'ordine di decollo rapido. Passano 16 minuti e alle 9.54 F-16 arriva e intercetta il jet. Tempo totale trascorso 21 minuti. intercettare, vuol dire solo questo: il caccia arriva, si mette davanti al jet in alto a sinistra e oscilla le ali. Questo vuol dire ti ho intercettato. Allora lei risponde, oscilla le ali anche lui, questo vuol dire sì, ti ho visto. Il caccia fa una virata e si lascia seguire. Solo questo. Per questo prima si fanno dei volari caccia, poi si vede. Ma se insomma oscillano un po' le ali a fuoco, che si prende. 11 settembre 2001. Prima versione ufficiale. Tra le 9:59 e le 8:14 i quattro aerei che verranno dirottati decollano. Alle 8:20 il volo 11 spegne il transponder. Questo appare sui monitor della FAA, del Pentagono e del controllore di volo. L'aereo è diventato un puntino non riconoscibile e si dirige verso New York ed è a 25 minuti di distanza. Qualche attimo dopo succede lo stesso al volo 175 che è a 40 minuti di distanza. Da questo momento passano 18 minuti di silenzio. E poi finalmente la torre di controllo di Boston avvisa il NORAD che il volo numero 11 è stato dirottato dalla sua rotta. Altri 7 minuti di silenzio, di calma piatta e alle 8:45 il volo 11 colpisce la prima delle torri gemelle. Intanto il volo 77, quello che colpirà il Pentagono, è uscito dalla sua rotta e ha spento il trasporto. Dov'è il Presidente? Scusate, voglio fare un gioco. Allora, il gioco è questo. Facciamo finta di essere dell'amministrazione, non mi vedo, facciamo finta di essere dell'amministrazione della Casa Bianca, va bene? Noi dobbiamo fare l'agenda del Presidente. Allora, il gioco è questo, lo sappiamo. Non è così, vuol dire, noi non lo sapevamo, ma il gioco è, lo sappiamo. Quindi dobbiamo fare l'agenda, 10 settembre, 11 settembre, ah, attacco le torri, bene, che facciamo fare al Presidente? È un gioco, E li facciamo fare al Presidente, lo facciamo stare nel suo ufficio stacanovista a lavorare. No, troppo banale, poi puoi dire, se è la Casa Bianca puoi reagire subito. No, fuori, deve stare lontano. Facciamo andare in Europa, facciamo parlare con qualche politico. No, non un ambiente politico. Deve stare in un ambiente dove è innocente. Sì, cosa voglio dire? Facciamo andare in visita a una scuola elementare in una città di provincia. Mentre Bush esce dal suo albergo in Florida per andare a visitare la scuola elementare di Sarasota, viene raggiunto dalla notizia del terribile incidente. Da questo momento, dal primo schianto, passano 18 minuti ancora e il volo 175 raggiunge alle 9:03 Manhattan e colpisce la seconda torre. Due minuti dopo la notizia arriva dalla scuola elementare. Bush è seduto sopra una sedia di legno accanto alla lavagna dove c'è la maestrina che indica con la bacchetta e i bambini. Tutti quanti insieme leggono in coro. A un certo punto il capo di gabinetto si avvicina e si sussurra qualcosa all'orecchio. Sui giornali il giorno dopo si leggerà il Presidente cambiò. Niente, si rimise ad ascoltare la seconda domanda. Da questo momento i caccia sono ancora pacificamente a terra. L'aereo si sta dirigendo, l'aereo numero 38 si sta dirigendo verso Washington e a un certo punto viene notato. La polizia di New York alla radio sta trasmettendo un segnale che dice si è trattato di un attentato terroristico. Volete avvertire il Pentagono? Sono passati 45 minuti dal primo dirottamento, 27 minuti comunque dal primo avvenimento ufficiale e nessun aereo ha ancora decollato. Ma dov'è il capo di Stato Maggiore? Il generale Myers, capo di Stato Maggiore, è in Capitolio a parlare col senatore Max Cleveland. L'ufficio stampa dell'esercito scrive: mentre si trovava in un ufficio esterno, aveva visto al telegiornale che un aereo si era schiantato contro il World Trade Center. Pensavamo che si trattasse di un aereo monoposto o di qualcosa del genere. Il senatore e il generale rimangono a parlare. Alle 9:30 Bush va in televisione e dice che gli Stati Uniti d'America sono stati attaccati, sempre all'insaputa del capo di Stato Maggiore, e con i caccia ben piantati. Alle 9:37 il Pentagono viene colpito e finalmente i caccia decollano. seconda per proteggere e intercettare. Myers continua, il generale. Al momento che uscimmo dall'ufficio, ormai era tutto chiaro. E qualcuno in quel momento arrivò e disse che anche il Pentagono era stato colpito. E poi qualcun altro mi mise in mano un cellulare e fu allora che parlai con il generale responsabile dell'aviazione. E fu allora, penso, che prendemmo la decisione di cominciare a far partire i caccia. Myers dice anche che il Pentagono sì, ha tenuto tutto sotto sorveglianza fino almeno dal momento dell'attacco alla prima torre. 35 minuti dopo, ancora alle 10:15, un quarto aereo dirottato precipita in Pennsylvania. Ma credo ormai ce l'avamo già dimenticato. Qualche giorno dopo viene divulgata una seconda versione ufficiale che minimizza gli errori della prima con semplice ritardo. Ma non mi ritardo! Allora, il NORAD è vero, parte con 18 minuti di ritardo perché la FAD ha avvertito il ritardo e va bene, ma subito si aziona, ci mette solo 6 minuti a dare l'ordine di decollo rapido e sceglie la base di Otis che è a 290 km da Manhattan, senza spiegare perché non sceglie quella di Hawaii che è solo 114. Comunque, l'ordine arriva alle 8:44 e dopo altri 8 minuti gli F-15 sono in aria. Ora, se voi andate nel sito delle forze armate americane, c'è scritto che un F-15 con ordine di decollo rapido raggiunge quota e piena velocità in 2 minuti e mezzo, ragazzo. E quando dico piena velocità, intendo dire piena velocità, 3.400 km all'ora. Invece i caccia decollano alle 8:52 e quando la 903 viene colpita all'altra torre sono ancora a 113 km di distanza. Hanno fatto 180 km in 11 minuti, un terzo della loro potenza. A questo punto, niente viene mosso. Si pensa a far salire il presidente sulle One, ma nessuno pensa a far decollare altri caccia. Nessuno dà un ordine per 20 minuti. E poi il volo 77, che si dirigeva da 38 minuti verso Washington, viene notato. Allora scatta l'allarme. Sono le 9:24 e NORAD entra in allarme. Invece di chiamare subito gli aerei della vicina base di Andrew, a 16 km, quella che si occupa di difendere la capitale, quella che custodisce le One, chiama quelli di Langley a 210 km. Questa volta ci mette solo 6 minuti rispetto ai 14 di poco prima. Gli aerei decollano alle 9:30. Alle 9:37 il Pentagono viene colpito e gli aerei arrivano alle 9:52. Beh, insomma, qui le cose vanno fatte per bene. Ora non parla, però insomma, le cose non è che si sanno tutte. Magari c'era una talpa, però chi era questa talpa? Oppure c'era una avaria. Una avaria, insomma, può essere. Il radar non funzionava, oppure nonostante gli allarmi. Oh, il controllore si è addormentato. Vabbè, ditecelo. Va bene. Basta sapere. Facciamo un'indagine seria. 10 ottobre l'FBI interrompe l'indagine dei suoi agenti che investigavano sull'attentato, definendo le investigazioni finora fatte come le più accurate della storia. Oh, un mese intero! A gennaio del 2002, CNN, il presidente Bush in persona ha chiesto al rappresentante della maggioranza in Senato di limitare le indagini della Camera sull'11 settembre. Si sarebbe altrimenti così sottratto fondi e personale alla guerra, al terrorismo. Perché insomma sempre a parlare, a indagare, lo sappiamo, questa guerra bisognava farla almeno 10 anni prima. E allora, forza, ragazzi! Ininterrottamente per 14 anni, solo perché è morto 2 anni prima della fine della seconda guerra. lasciando Truman al suo posto, il quale ha inaugurato la guerra fredda con questa frase: guerra perpetua per pace perpetua, una dottrina Truman. In pratica, gli anni che vanno dall'inizio della seconda guerra mondiale fino a Truman sono stati gli anni d'oro degli Stati Uniti, la grande impresa, il boom economico. Avevano così paura che qualcosa potesse cambiare che continuavano a rileggere la stessa persona che quando non è morta. E poi? Quando la guerra è finita, non è che ci porta la sfiga questa pace? Non ce la possiamo tenere una guerra, una cosa così? Una guerra come questa qua, quella che ci dava un sacco di soldi senza che ci accorgessimo neanche dei morti. Presidente, presidente, l'abbiamo detta noi, ce la può organizzare una cosa così, eh? Una guerra, però fredda. Una guerra perpetua per avere una pace perpetua. Mm? In una puntata di Star Trek il comandante Kirk va a conoscere la popolazione di un nuovo mondo. E in questo mondo futuristico il popolo, che è tutto uguale agli esseri umani, è diviso in due grandi blocchi enormi e contrapposti che si fanno la guerra da decine, centinaia di anni. La città dove Kirk e i suoi sono ha appena subito un attacco terribile, un bombardamento enorme, ma senza allarme, senza fumo, grida, il sole si riflette sulle finestre intatte. Eppure insomma l'attacco c'è stato, è stato anche insomma, un duro colpo, lo dice la televisione, giornali, sono scritte le vittime. Quelli che si trovavano nel luogo dell'attacco devono presentarsi alle camere della morte per rispettare i patti di guerra. Centinaia di anni prima, quando era cominciata la guerra, si usavano bombe vere, morti per strada, e cadaveri, e fumo, tosse. Poi, piano piano, abbiamo messo dei vini. Niente più tortura. Trattiamo bene i prigionieri, voglio dire. E poi, insomma, armi troppo distruttive? No, per esempio i gas, via. E poi la tecnologia ha iniziato ad aiutare, quindi i satelliti, poi le bombe intelligenti, sempre maggiore precisione. Ormai non sbagliavano mai. Potevi dire al computer di beccare un punto preciso ed eri tranquillo che l'aveva centrato. Ormai in realtà si poteva fare tutto sul computer. Tu davi gli ordini e la scacchiera si accennava automaticamente. Non c'era più bisogno di tutta quella disordine che rendeva anche la guerra insopportabile, insomma, di limite proprio. Quando un obiettivo veniva colpito, secondo le coordinate e la potenza che il computer intelligente dava, si calcolavano i danni economici e i morti. I defunti venivano chiamati alle camere della morte e entravano uno alla volta in intimità e morivano davvero. E questo grande ordine, segno di civiltà, faceva in modo che la guerra senza troppi scandali, no? E quando che diciamo nell'anima rivoluzionario non ha incasinato il computer e fatto arrivare due missili belli, macerie, sangue, dolore, tosse, lacrime, oddio, la tragedia, la gente impazzita, la tragedia, la tragedia! E ha visto cosa avveniva dentro ai computer. Ha visto a che cosa si divertivano a giocare gli strateghi sulle loro scacchiere. Bert Zinsky, un vecchio politico americano, ex consigliere per la politica estera di Carter, che bazzica intorno alla Casa Bianca ormai da 40 anni, ogni volta in forme diverse, nel 97 è presidente per il Consiglio delle Relazioni Estere e firma uno studio intitolato The Grand Chessboard, la grande scacchiera, sottotitolo Il primato americano e gli imperativi geostrategici. Scrive: da quando i continenti hanno iniziato a interagire politicamente circa 500 anni fa, l'Eurasia è stato il centro del potere mondiale. L'Eurasia comprende tutti i territori ad est e sud della Germania, quindi gran parte della Russia, l'Arabia Saudita, il Medio Oriente, fino alla Cina e parte dell'India. L'Eurasia comprende il 75% della popolazione mondiale e produce il 60% del prodotto lordo mondiale e possiede i tre quarti delle risorse energetiche del pianeta. Russia Russia e Cina sono le due principali potenze in grado di minacciare l'egemonia americana nella regione. La regione di cui parla per tedeschi sono gli Stati. Il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tajikistan, il Kazakistan, se vogliamo anche il fratello povero, l'Afghanistan. Sono tutti di grande importanza strategica per le mire espansionistiche di Iran, Cina, Turchia e Russia. Mire espansionistiche. Nel senso che si conquista, si annette. No, non siamo tornati dall'impero romano. La situazione è diversa. Qui si parla di dipendenza. Siamo tutti dipendenti, come gruppi, come singoli. Come stati dipendiamo dall'energia. Un giorno senza energia in una città occidentale, la tragedia. E soddisfare questa energia, controllare l'afflusso e il deflusso di questa energia, senza la quale ormai niente è possibile. Controllare questa energia. Intorno al Mar Caspio e sotto l'acqua. Le cime entusiastiche degli anni 80 parlavano di giacimenti paragonabili solo a quelli dell'Arabia Saudita. E la più alta concentrazione di gas naturale del mondo. Poi negli anni 90 è stata ridimensionata la cosa, ma il fatto più eccitante è che in realtà non si sa. Perché la maggior parte di questi giacimenti sono vergini e nessuno li ha mai scavati, quindi non si può sapere quanto in realtà siano grandi. Sotto la Russia era calcolato che veniva usata l'energia soltanto al 30%. Poi, nell'89 cade il muro di Berlino. Nel 91 la Russia si frantuma e si formano tutti questi staterelli indipendenti con una gran voglia di staccarsi dalla vecchia madre e di unirsi al mondo ricco! Sì! Contemporaneamente la Cina inizia la sua lenta trasformazione del mercato verso il libero mercato verso l'Occidente e cresce, nuove imprese, grandi costruzioni, aumento del consumo energetico. Gli vanno dietro dalla Thailandia all'India, tutti i posti densamente popolati, nuove potenze crescono! Il Dipartimento di Energia degli Stati Uniti prevede che entro il 2015 il consumo energetico nella regione sarà duplicato. E da dove arriverà tutta l'energia che serve a questi stati? Chi ha tutta l'energia per rendere liberi e indipendenti gli stati dell'Asia meridionale? I beni deboli, piccoli. Nel 92 sfugge ai funzionari del Pentagono un documento dove c'è scritto: è il primo interesse degli Stati Uniti. Anche non si affacci nessun altro rivale sulla scena, capito? La guerra fredda è finita da 3 anni. È necessario organizzare un nuovo ordine. Per i possibili rivali capiscano che non c'è nessuna necessità di respirare la parola maggiore. Per tedeschi semplifica così. Permettila con la terminologia che ricorda la brutale durezza degli antichi imperi. I 3 imperativi della geostrategica imperiale sono: 1. Perpetuare tra i vassalli la dipendenza. Mantenere i tributari docili e protetti e evitare che i barbari si mettano insieme. I tributari sono protetti, ci pensa l'esercito più potente del mondo a farli stare tranquilli e i barbari si sono appena sfrantumati da soli. Ma come si fa a rendere i vassalli dipendenti? Bisogna controllare lo spazio, energia che renderà possibile l'emancipazione di 2 miliardi di persone. E il nuovo gioco si chiama Difendiamo gli Stati! Gli Stati Uniti d'America offrono di aiutare a sfruttare al massimo le loro risorse energetiche e quindi offrono aiuti umanitari e militari. L'Unione Sovietica li tiene nella loro sfera di protezione e in Europa, dove siamo sempre gli ultimi, solo nel 97 Xavier Solana, il nostro responsabile per la sicurezza, dichiara che l'Europa non può essere del tutto sicura se non inserisce il Caucaso nella sua zona di sicurezza. Ma una domanda, voglio dire, se lo difendete tutti, no? Chi dovrebbe attaccare? È la solita storia dei pizzi di quartiere a Napoli. Oh, bello questo negozio, davvero, bel negozio. Può farci un sacco di soldi, sarebbe un peccato che ne ha qualcuno di rompere la vetrina, no? Noi ci teniamo a queste cose, si rivolgano e questa è la nostra vita, urra sassà. Cioè però, ex urra sassà, abbiamo avuto un po' di casini per i picciotti, ma ora massacriamo che bastate dei cecelli, se li mette tutto a posto, non si deve preoccupare, si affidi a noi, arrivederci. Hello, I'm the International Security System, yes. Noi vendiamo apparecchi sofisticatissimi, antifurto, antincendio, antirapina, antitutto. E noi la sosteniamo se ha problemi in famiglia, facciamo studiare i suoi figli nei migliori college. Yes, lei non si accorgerà neanche di noi. Noi mettiamo qui la nostra base, in un angolo con tutte le più moderne tecnologie, e sorvegliamo tutto. Quando poi lei ha un problema con qualcuno, basta che spinge questo bottone e noi gli insegniamo la democrazia di Santa Ragione. Oh, yes! You sa! Yes! Si può rivolgere a noi, grazie! Permesso? I'm from the police, Entschuldigung. Nosotros ci occupiamo di seguridad. Sì, stiamo molto attenti. Usurbin, sei tutto pericoloso. And you're so fortunato, because Bruce Alonso sceglie who for our program of security. Yes, mi ascolti, il nostro programma s'appelle EUR. Yeah. E con nosotros con queste no potrà farvi del male. Yes, auf Wiedersehen. Bene, gli stanno così rimprinzati di protezione, ora devono soltanto scegliere chi li farà diventare più ricchi, chi li manterrà meglio sul loro corpo. Analizziamo le cose. Allora, il problema del caso è che è lontano da tutto. E non ci sono neanche le strade. La prima via di comunicazione diretta tra l'Asia centrale e l'Asia meridionale è una ferrovia costruita nel 95, Iran-Turkmenistan. Okay. Per l'occasione, al confine del Turkmenistan, hanno costruito questa cattedrale letteralmente nel deserto. Una bellissima stazione ferroviaria con biglietterie in marmo che vede passare 4 treni a settimana. Allora il re del Turkmenistan l'anno dopo ha fatto inaugurare un enorme, sfarzosissimo aeroporto internazionale che dopo pochi mesi ha chiuso per mancanza di gare. La realtà è che nessuno ci vuole andare! Va bene, è troppo lontano, poi una volta che sei lì non sai neanche come muoverti. Va bene, sì, c'è il petrolio, però c'è il petrolio, ma come lo portiamo nelle petroliere? La maggior parte del petrolio si trova all'interno del Turkmenistan e sotto il Mar Caspio. Da qui andare al Mediterraneo, mica è lunghissimo. Allora, comunque si può passare dalla Georgia, che insomma non è poi così tranquilla, poi ci sono i ceceni della Turchia che non si sa mai, lasciamo stare. Allora, la rotta più importante comunque è un'altra, no? L'oceano indiano. Ci sono due strade, l'Iran oppure l'Afghanistan e il Pakistan. Nell'Iran, come in? Ah! Gli americani non vogliono sapere. Allora, Pakistan è un vecchio amico degli Stati Uniti. Bene, bisogna passare dall'Afghanistan. Problema! L'Afghanistan è dilaniato da guerre civili che durano da più di 20 anni. Ah! Sei un problema! Io amo i problemi, un bel problema internazionale, con tanto di scontri etnici e civili e arabi, interessi commerciali, blocchi contrapposti, sì, un po' di movimento per questi politici annoiati. Voi mettetevi nei panni di un giovane ragazzo intelligente e tenace che con molta ambizione si prepara per mettersi alla guida del suo paese e studia, no? Studia all'università, scienze politiche, e cosa studia? Studia Churchill, Bismarck, o Cavour, ancora prima Metternich, Chamberlain, Washington, Rousseau, prima ancora tra i più grandi, Carlo Magno, Padre Cesare. Poi finalmente lo leggono primo ministro e la prima cosa che deve affrontare è lo sciopero dei ferrotramvieri a Milano. o la percentuale di pubblicità che può fare un partito rispetto a un altro in televisione. Oppure il matrimonio da gay, lei che ne pensa? So è naturale che negli anni 70, quando scoppiò la guerra delle Falkland, la Thatcher disse: è così eccitante. Dopo una vita passata a risolvere problemi sociali, gestire una leva crisi. E la partita di questo decennio si svolge qui. Se voi entravate nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti il 2 febbraio del 98, si discuteva dell'Asia centrale. Il discorso introduttivo diceva questo. 100 anni fa, l'Asia centrale si è trovata al centro di una grande partita che vedeva come protagonisti la Russia zarista, l'impero britannico, la Francia napoleonica e il Giano e ottomano. Altri tempi. 100 anni dopo, con la caduta dell'Unione Sovietica, si apre una nuova grande partita che vede gli interessi della Compagnia delle Indie sostituiti da quelli di UNOCAL. UNOCAL, Union Oil of California, la 12ª compagnia petrolifera degli Stati Uniti, con sede nella cittadina, anzi, come sede la cittadina di Sugarland, terra dello zucchero. Ad aprile del 95, funzionari turkmeni vanno a Houston, Texas, a incontrare la UNOCAL. È grande amore. Il re del Turkmenistan firma il 25 ottobre un accordo con la UNOCAL per esportare il gas naturale dal Turkmenistan al Pakistan attraverso l'Afghanistan. Bene, il primo passo è fatto. Ora bisogna parlare con gli afghani. Hello! Hello, I'm from the United States, California, yes. Noi volevamo costruire un oleodotto. Con chi devo parlare per i permessi? Dico per i diritti, le royalties. Con chi devo... Insomma, chi governa qui? Dipende. L'Afghanistan. L'Afghanistan è forse il paese più sfigato del mondo. Un vecchio mujahideen racconta la nascita dell'Afghanistan così. Allah creò il mondo e quando l'ebbe finito di creare si accorse che gli era avanzata una quantità di materiale di scarto che non si adattava a nessuna nazione, allora lo prese tutto insieme e lo gettò sulla terra. Così è nata l'Afghanistan. Accidentato, arido, sabbioso, montagnoso, non ha risorse energetiche, è coltivabile solo al 10 o 12%, eppure tutti lo vogliono invadere a migliaia di anni. Il fatto è che l'Afghanistan è sempre nel mezzo, è il suo karma. E trovarsi nel posto sbagliato per uno stato è terribile, perché non puoi spostarti. E quindi prima o poi, nel momento sbagliato arriva, no? Del mondo, e viene anche un bel affatto, eh? Riesce a farci costruire tutte le grotte tra le quali poi si passa. Comunque, il Pakistan diventa la sede di addestramento e improvvisamente lungo tutto il confine compaiono delle scuole coraniche che servono a indottrinare e fare allenare tutti i musulmani giunti da tutto il mondo, che si chiamano madrasse, scuole coraniche. Nel 96 la BBC intervista il primo ministro pakistano, Benazir Bhutto, e gli chiede: ma sono belle queste scuole, ma sono vecchie, da dove vengono? Ah, queste, no, no, no, la costruito l'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e anche noi durante la vecchia Giada, quella contro i russi. Ma quella comunque è una partita chiusa, perché nell'89, quando finisce la guerra fredda, i russi tornano a casa e la CIA smette di dare soldi ai mujahideen. Risultato della partita, la più lunga guerra civile. Ecco, centinaia di migliaia di profughi che scappano dall'Afghanistan e vanno in Pakistan e lì ricominciano a studiare nelle madrasse. Ma ora i campi addestramento si chiamano campi profughi. L'uomo del popolo si nasconde in una città vicino a Canada, Sintesi. È il mullah locale, il prete, e insegna in una madrasa ai piccoli donne. Schivo e silenzioso lo fa un pessimo oratore, nessuno pensa che abbia una carisma, però fa il suo lavoro con devozione. E leggenda vuole che nella primavera del 94 i suoi vicini di casa vanno a trovarlo e gli dicono che un comandante ha rapito due bambine, le ha aggrappate a zero e le ha portate nel campo militare dove sono state stuprate ripetutamente. No, ma non può stare fermo. Cerca qualcosa, cerca dei militari che lo aiutano, ma trova soltanto studenti di teologia. Ne prende 30 e li armano le bombe, 16 fucili, questo qua. E insieme muovono l'attacco contro il campo. Vincono, liberano le bambine e impiccano il comandante alla cisterna. Qualche mese dopo, a Canada, c'è una disputa tra due comandanti che si vogliono, che si contendono con un ragazzino e entrambi vogliono sodomizzare. Muoiono dei civili, arriva Omar con i suoi, libera il ragazzino e punisce i comandanti. Improvvisamente da tutta la regione arrivano richieste di aiuto. Quando c'è un'ingiustizia si chiama Omar. Ora vabbè, i metodi forse non sono proprio quelli di Robin Hood, assomigliano forse un po' più a quelli delle team, però insomma il concetto è quello. Omar poi non chiede nulla, non vuole nulla per essere aiutato, chiede soltanto che la gente lo segua nello studio e nell'istruzione per un Islam più giusto. Nasce così il movimento degli studenti, che in arabo si dice talebani. Severi, intransigenti. Vogliono la pace e la giustizia a tutti i costi. E formulano l'interpretazione del Corano più oscura che sia mai stata fatta dalla fine del millennio. Il 5 novembre del 94 conquistano Kandahar, la seconda città dell'Afghanistan, e impongono la loro legge, la Sharia. Vietato ogni tipo di istruzione alle donne. È vietato lavorare alle donne tranne che in ospedale, per ora. Danno 6 mesi di tempo agli uomini per farsi crescere una barba della lunghezza del palmo di una mano. Se vengono trovati uomini con la barba più corta di diversa lunghezza, potranno essere picchiati e incarcerati. Se una donna fa vedere qualche parte del corpo, potrà essere lapidata. È vietato qualsiasi tipo di sport. È vietato giocare a scacchi. È vietato ballare, cantare e suonare anche ai matrimoni. È vietato far volare un aquilone, è vietato allevare uccellini in gabbia, è vietato per un sarto prendere le misure a una donna e anche possedere qualsiasi rivista di moda. Tutti devono rispettare le 5 preghiere giornaliere del Corano e devono andare nelle moschee. Se un giovane verrà trovato a quell'ora in un negozio, verrà arrestato. Però, in cambio, c'è ordine. Ordine? Mi piacciono questi, sono forti. Ordine? Va bene. Senza ordine non c'è business. Posso mai costruire un ponte tra due sponde in guerra? No, no, non posso. Posso mai investire in un paese dove c'è terrorismo? No, no, non posso. Ordine ci vuole, stabilità, questa è la parola chiave. Stabilità. Posso mai costruire un oleodotto da miliardi di dollari in un paese dove... Abbiamo un sacco di cose in comune. Dobbiamo parlarci, no? Hanno intervistato migliaia di persone e hanno riscontrato saldi e avrebbe suonato. Il sentimento che fa in modo che due esseri umani si riconoscono come appartenenti alla stessa specie. Quindi riconoscono di avere una comune responsabilità, una comune tristezza, un comune esserci. Si chiama empatia. E questo sentimento tanto nobile quanto discreto in realtà non alza mai troppo la voce. E di fronte all'arroganza o al potere, soprattutto di fronte alla paura, si fa un po' confuso, debole. Allora uno guarda l'altro e gli sembra di vedere un alieno. La importanza che si dà alla vita dell'altro improvvisamente è molto minore di quella che si dà alla nostra. Che c'è? Lui è diverso! Vi ricordate Gulliver, no? Quando arriva Lilliput e i lillipuziani stanno combattendo contro i loro vicini. Allora il re dei lillipuziani, per mostrare la santa causa della loro guerra, fa vedere a Lilliput, a Gulliver, un uovo alla coppa. E poi lo apre dalla testa. I loro avversari lo aprono dal sedere. Oddio, non bene, non mi dire. Li possiamo piazzare tranquillamente dall'altra parte della scacchiera perché sono soltanto pezzi di legno. Beltedrischi dice: l'insediamento, il consolidamento e l'espansione dell'egemonia americana nell'Eurasia richiede una militarizzazione della politica estera precedentemente sconosciuta e praticamente senza limiti, insieme a un'opera capillare, anch'essa priva di precedenti, di creazione del consenso e dell'appoggio nazionale alla campagna. Nel 1800, quando gli Stati Uniti hanno attaccato la Spagna per prendere il New Mexico, combattevano con il grido Remember the Maine. Il Maine era una nave attaccata a Guantanamo che subì un'esplosione e affondò. Fu la scintilla. Gli americani attaccarono il New Mexico e lo conquistarono urlando Remember the Maine, Remember the Maine. Bellesisti continua. In più, bisogna considerare gli Stati Uniti stanno diventando sempre più una società multiculturale e in quanto tale può essere più difficile creare consenso su questioni di politica estera, tranne che in presenza di una minaccia enorme, diretta, percepita a livello di massa. Agosto del 98, agenzia stampa, UNACAL sospende a tempo indeterminato la costruzione dell'oleodotto. Osama Bin Laden si fa sentire anche in Afghanistan. Osama, come lo chiamano tutti, dopo aver fondato Al-Qaeda, una volta che la Russia si è ritirata, se n'era andato in Africa, dove aveva fatto tutti quei lavoretti di terrorismo che l'hanno fatto diventare famoso. Ha messo qualche bomba nelle ambasciate americane, una nave americana, un aereo filippino, tenta di uccidere Mubarak, fa saltare in aria una base militare americana in Arabia Saudita e cose del genere. Fin quando nel 96 il ministro della difesa del Sudan chiama gli Stati Uniti e dice: ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, sì, grazie. Beh, possiamo esplodarlo se volete, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita o due operatori, possiamo anche tenerlo noi in custodia. La richiesta di estradizione viene rifiutata da Stati Uniti e da Arabia Saudita. Gli arabi avevano paura di un contraccolpo fondamentalista se incarceriamo o condanniamo Bin Laden. Quindi gli Stati Uniti non avevano informazioni sufficienti per processarlo. Chiedetevi solo di andarsene, di lasciare il paese e non fatelo andare in Somalia. Andare in Afghanistan, disse. Lasciatelo andare. Osama arriva in Afghanistan e mette Al-Qaeda e i suoi soldi al servizio dei talebani per vedere se finalmente anche l'Afghanistan del nord lo conquistiamo, no? I talebani diventano sempre più indipendenti e fastidiosi e scacciano da Kabul tutte le organizzazioni umanitarie. Vogliono solo una cosa: essere riconosciuti. Finché gli Stati Uniti non li riconosceranno, nessun investitore internazionale vorrà dare i soldi per costruire gli oleodotti. Cercano di fare anche uno scambio. Se noi vediamo, no, Bin Laden, no, voi ci riconoscete. Niente da fare. La UNOCAL gli fa da consulente per le relazioni estere. Gli dice: prima estradate Bin Laden e poi, insomma, non so, alleggerite un pochino questa vostra legge sulle donne, no? Aiutate la possibilità, aiutate un pochettino, loro vogliono riconoscere, aiutateli, per favore. Niente da fare. Osama è diventato ormai grande amico di Omar e le donne sono il diavolo, punto e basta. Il 7 agosto del 98 Al-Qaeda colpisce due ambasciate americane in Africa. Gli Stati Uniti rispondono bombardando due centri addestramento di Al-Qaeda in Afghanistan. I sogni della UNCAL si infrangono insieme alle vite di quei terroristi morti in quei campi. Nessuno vorrà più investire in un paese bombardato dagli Stati Uniti. E ora che i lavori sono sospesi, i talebani diventano una tirannia inumana! Ma sono terribili! E piano piano vengono fuori tutte le atrocità che fanno sulla popolazione, poi il fondamentalismo a me fa paura, non so a voi. E quindi iniziamo tutti a parlare di operazione di polizia, guerra umanitaria, pace armata, cordone di sicurezza, pugno di ferro, diritto internazionale, sì, e sovranità tradita. E nel 99 l'Afghanistan è sotto embargo per ordine dell'ONU. Iniziano delle riunioni a Berlino ad alto livello che si chiamano le 6 plus 2, 6 più 2. 6 sono i paesi che confinano con l'Afghanistan, 2 sono Stati Uniti e Russia. L'argomento delle sedute è nuovo assetto politico dell'Afghanistan. Nel 2000 il Washington Post pubblica: gli Stati Uniti si stanno silenziosamente allineando con quanti richiedono un intervento militare in Afghanistan. E nel 2001 ai 6 più 2 si unisce anche un rappresentante di Kofi Annan per l'ONU. Non manca più nessuno. Maggio del 2001. Un generale degli Stati Uniti, Tommy Franks, visita l'Uzbekistan e gli dice: gli Stati Uniti considerano l'Uzbekistan un paese di grande importanza strategica. Anzi. L'Uzbekistan quindi concede l'uso delle sue basi e coglie l'occasione per presentare la domanda per entrare nella partnership per la pace della NATO, visto che parteciperà alla bella. A luglio del 2001, Cristina Rocca, vice segretario di Stato per l'Asia meridionale, va a Islamabad e incontra i talebani. In quell'occasione dichiara che saranno erogati 43 milioni di dollari per l'Afghanistan in aiuti umanitari, sempre mentre sotto embargo e senza l'obbligo di fornire nessun rendiconto. La situazione non si sblocca e a settembre è questa: Ranger USA stanno addestrando nel Uzbekistan truppe speciali. Truppe tagiche e turkmene si stanno addestrando in Alaska e in Montana. Due portaerei della task force americana arrivano nel Golfo Persico, mentre l'Inghilterra ha appena finito di formare la più grande armata dal tempo delle Falkland e la sta dirigendo verso Oman. Intanto in Egitto si stanno addestrando 23.000 soldati statunitensi e 17.000 NATO. E in Turchia, in quel mese, a settembre, sbarcano altri 12.000 soldati NATO. È tutto pronto, no? Manca soltanto la minaccia nemica enorme, diretta e percepita a livello di massa. L'ultimo attacco subito dagli Stati Uniti nel loro territorio, prima quello di Pearl Harbor del 41. Oggi tutti sanno che Pearl Harbor era stata prevista, come tutti sanno che JFK non è stato ucciso solo da Oswald, come tutti sanno che il Maine affondò per un guasto alle caldaie. Tutto nel 95, in seguito al processo istituito per riabilitare i due generali che furono accusati di non aver previsto l'attacco di Pearl Harbor, la figlia del direttore della Croce Rossa, Don Smith, ha testimoniato quello che è successo in una lettera mandata al giudice, che dice: poco prima dell'attacco del 41, il presidente Roosevelt chiamò mio padre, che era il direttore della Croce Rossa, per un incontro di massima sicurezza. Avvertì mio padre che i suoi servizi segreti lo avevano avvisato di un imminente attacco a Pearl Harbor da parte dei giapponesi. Prevedeva molte vittime e chiese a mio padre di inviare personale e scorte verso un'area di contenimento sulla costa occidentale di fronte alle isole e di aspettare l'ordine di salvare. Non lasciò dubbi a mio padre sul fatto che neppure uno degli ufficiali in servizio alle Hawaii dovesse essere informato. Quando mio padre protestò, il presidente Roosevelt gli disse che il popolo americano non avrebbe mai accettato di entrare in guerra in Europa se non fosse stato attaccato all'interno dei suoi confini. Tutto quello che sappiamo sul documento e altre cose lo sappiamo grazie a una legge americana che si chiama Security Act. Security Act dice che i documenti top secret hanno una scadenza, che può essere minima e può durare fino a 40 anni, massimo 40 anni. Dopodiché devono essere resi pubblici. Nel gennaio del 2002 Bush ha modificato questa legge. E il nuovo Security Act dice che una volta che i documenti arrivano alla scadenza, prima di essere divulgati devono avere l'approvazione del presidente in carica. E se anche il presidente in carica decide di divulgarli, prima deve chiedere l'autorizzazione a tutti gli ex presidenti ancora in vita. Oh, è una legge. Che hanno la possibilità di porre il veto, non fare pubblicare il documento fino alla loro morte, momento nel quale verrà ridiscussa l'apertura del documento, così virtualmente all'infinito. E siccome la verità non possiamo saperla, ci restano che versioni di questo mondo, no? Intorno ad esse noi costruiamo noi stessi, un po' più romantici, un po' più pratici, indignati oppure cinici. Decidiamo di non credere oppure di affidarci a seconda di quanto siamo stanchi, di quanto sangue abbiamo perso o di quanto siamo arrabbiati. Così disegniamo il nostro mondo. Ma vuol dire, qual è il mondo migliore? Un mondo dove hanno fatto tutto da soli, loro se lo sono organizzati e noi facciamo la parte delle marionette? Oppure un mondo dove esistono dei cattivi, così cattivi, cattivi proprio, e i buoni invece sono così poco santi? Oppure tutti viviamo di espedienti e ogni azione è così piccola e contingente che non riesce a essere letta nella storia, ma è formata soltanto da distruzione, cupidigia, miopia, invidia, mancanza di pietà, assenza di senso. È formato dal buio. Non lo possiamo sapere, nessuno può saperlo. È per il nostro bene, eh? Non si può sapere.